Era estate. Il grano era giallo, l'avena era verde, i papaveri erano rossi, il fieno era biondo, la sabbia era bianca. Insomma, ogni colore era al suo posto quasi. Una cicogna parlava in egiziano come le aveva insegnato sua mamma e si lamentava fra sé e sé perché aveva poco lavoro. Diceva più o meno così: Isbidulai, viti che sospensare che mi faccio non c'è lavoro in noi. Ascamalà, scamaloi. Mamma egiziana, il padre di Carbonia. La campagna era come un'isola. Al posto del mare, intorno ai campi e al prato, c'erano grandi boschi. Ah, quella campagna, che bellezza! C'era un castello, bello bello, circondato da un fossato pieno d'acqua limpida. Addossati alle mura del castello e oltre il fossato, crescevano alcuni grandi alberi di piricocco. E proprio là, sotto le fronde delle piante, Mamanatra covava le sue uova ormai pronte alla schiusa. Un giorno, che faceva ancora più caldo del solito, ecco che le uova cominciarono ad aprirsi. Avete mai visto delle uova schiudersi? Appena misero la testina fuori dal guscio e videro tutte quelle foglie verdi, gli anatrocolini rimasero a becco aperto. C'è, Asbio, avete cuburo, che bello, troppo rogu. La mamma lasciò che guardassero perché il verde fa bene agli occhi. Avete mai visto un buco con gli occhiali? No, e allora fa bene. Subito gli anatrini diedero la loro opinione. Piu, piu, piu, piu, piu, piu. Che vuol dire, com'è grande il mondo, mano, i che grande. Erano tutti eccitati, ma la mamma li eccitò ancora di più. Ovi ciocchetto, su! Credete che il mondo sia tutto qui? Credete che sia così piccolo? Il mondo, a mamma, è enorme! Arriva fino all'altra parte del giardino, sino ai terreni del parroco! Vogliamo andare dal parroco? Dai, mamma, ci porti dal parroco, dai! Mamma, andiamo, dai! Oh, manco nati già facevano i capricci. Ma la mamma, spazzando via i resti dei gusci, disse agli anatrini che non dovevano mai allontanarsi da lei, che nemmeno lei si era mai allontanata e che gli anatrini non dovevano mai andare dal parroco neanche col pensiero. E girando la testa dall'altra parte, si accorse dell'ultimo uovo che non si era schiuso come gli altri. Forse perché era molto grosso. Ricominciò pazientemente a covarlo e nel frattempo si lamentava murrungiando. Uff, non ti posso russ, se vuoi arroscia pure chaseo. Comare Rosina, visto che belli anatrocolini, tutto da me hanno preso, dal padre, questo disgraziato che oggi non si è fatto neanche vedere. Mandrone imbriagone, ma giro orrera, vero, ma già torna però. Comare Rosina, una vecchia anatra, guardò bene quello strano uovo. Ma oh, comare, ma non sarà un uovo di tacchina? Per me di tacchina, la sta di ingune, lascialo lì, la padrona ci farà una frittata. Mamma Anatra però decise di covarlo ancora un po' e finalmente l'uovo si ruppe. Gli occhi di Mamma Anatra videro uscirne fuori un affare grande, grosso e veramente brutto. Questa cosa legge, dai, mo carinare per una conca è morto. Ita, danno che cosa brutta, per carità, no, fammelo vedere, perché è una cosa legge, danno che cosa brutta.